L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale torneremo ad affrontare un tema che ci è molto caro fin dall'inizio di questo programma, ovvero il consumo di suolo. Ne parliamo con Nicola Dall'Olio, che è già stato nostro ospite in passato, che ricordiamo è autore e regista del film Il suolo minacciato, che ha avuto molto successo l'anno scorso e che riguarda il consumo di suolo, appunto, in particolare nella provincia di Parma, che è la provincia presso la quale lavora tra l'altro Nicola Dall'Olio, che recentemente è diventato anche consigliere comunale del PD a Parma. Nicola Dall'Olio è stato, proprio per questa sua esperienza cinematografica, ma anche per il suo lavoro quotidiano presso la provincia di Parma, uno degli esperti esterni consultati dalla Commissione europea nella stesura delle linee guida contro il consumo di suolo in Europa. E quindi, prima domanda, Nicola, è ovviamente come ti sei trovato a far parte di questo gruppo di esperti e come avete lavorato a Bruxelles? Tutto è nato dalla Green Week del 2011, dove ero stato invitato con il film Il suolo minacciato a proiettarlo, proprio perché una unità della Direzione Ambiente, che si occupa appunto di suolo, agricoltura e foreste, stava già lavorando su un documento pensato per ridurre il consumo di suolo. Infatti già nel 2011 era uscito un comunicato da parte del commissario europeo all'ambiente che lanciava l'allarme di questo fenomeno del consumo di suolo in Europa, dell'impermeabilizzazione e quindi anche dei costi, degli effetti che aveva a scala europea e anche delle ripercussioni sulle altre politiche ambientali europee, in particolare quella per la lotta ai cambiamenti climatici. E dopo da lì ho partecipato come esperto esterno, in quanto si è creato un gruppo di lavoro formato sia da personale della Commissione europea che dell'Agenzia europea per l'ambiente che di altre istituzioni, compresa la Regione Emilia-Romagna. Io ho partecipato come esperto esterno in rappresentanza degli enti locali della provincia di Parma per cui lavoro. E ci siamo incontrati alcune volte a Bruxelles per così emendare il documento che questa unità stava sviluppando. Su quali punti avete come esperti esterni puntato soprattutto l'attenzione, per esempio nel tuo caso provenendo da Parma? Ma intanto loro avevano bisogno di uno sguardo generale sulle differenti realtà europee, perché è evidente che un problema come quello del consumo di suolo, insomma, ha dinamiche, ragioni, driver molto diversi da zona a zona, con anche e soprattutto andamenti diversi. Quindi da una parte noi abbiamo portato un po' l'esperienza e i dati della realtà, della nostra realtà, che è quella dell'Emilia-Romagna, dove ci sono tra l'altro dati molto accurati sulla trasformazione dell'uso del suolo grazie alle cartografie che vengono prodotte dalla Regione Emilia-Romagna, e questo un po' è servito così da elemento di confronto anche per valutare le stime che invece vengono fatte a scala europea, perché uno dei problemi, diciamo, sul consumo di suolo è anche le modalità con cui viene rilevato. A scala europea vengono usati i dati satellitari del Corinne Land Cover, che ha comunque una scala piuttosto vasta, insomma, quindi non di dettaglio, e da questi dati, insomma, emerge un tasso di consumo di suolo di circa 1000 chilometri quadrati all'anno a livello europeo, che è un'area grande come la Grande Berlino, scusate il gioco di parole, e che in 10 anni di fatto porta a occupare la superficie di un paese come Cipro, tanto per essere chiari. Però è anche un dato in parte sottostimato in realtà, perché poi se si usano dati di maggior dettaglio, i dati satellitari non riescono a rilevare quel consumo diffuso legato allo sprolo urbano, tipico per esempio della nostra zona, della nostra pianura padana, che è molto frammentato con piccoli insediamenti e che quindi sfuggono al rilievo satellitare, invece magari con dei rilievi più a bassa quota, ecco che queste cose si possono vedere, quindi questo per esempio, è servito per capire che appunto il dato era ancora più allarmante di quello che loro ritenevano allarmante, tanto per essere chiaro. Sì. Poi dopo ci sono stati anche aspetti così sui principi, no, per poter contrastare il consumo di suolo. E quali sarebbero? Quello che Commissione insomma, europea ha voluto fare, in mancanza in questo momento di una direttiva quadro sul suolo, che già c'è ferma da un po' di anni per contrasti tra i vari Paesi membri, sono state fatte in pratica queste linee guida per individuare le migliori pratiche. Anche questo era un altro dei motivi per cui sono stati un po' coinvolti vari paesi, esperti di vari paesi europei, proprio per vedere le migliori pratiche a livello europeo per limitare, mitigare e compensare quello che viene chiamato soil sealing, che poi è l'impermeabilizzazione dei suoli per noi. E già nel titolo è molto chiara la gerarchia che si è voluta prendere in considerazione, cioè una volta definito il problema, le cause, i costi, la necessità di contrastarlo, la gerarchia dice la prima cosa da fare è limitarlo il consumo di suolo, a prescindere, insomma, quindi bisogna fare in modo di evitare che vi sia questo consumo. Poi c'è quello di mitigare gli effetti che possono derivare dal consumo di suolo, in particolare cercando di preservare alcune delle funzioni dei servizi ecosistemici che il suolo garantisce, ad esempio la permeabilità, la capacità di stoccare dell'acqua. Quindi per esempio quando si va a fare un parcheggio, che tipicamente è una impermeabilizzazione, un consumo di suolo, usare sottofondi di un tipo o di un altro può consentire comunque ancora al suolo, per quanto se ne perda le sue capacità produttive, può consentire di svolgere almeno alcune funzioni. Quindi queste sono le mitigazioni. Poi c'è la compensazione, che invece è proprio di cercare di trovare, non è una mitigazione, ma trovare il modo di bilanciare proprio quello che si perde del suolo andando a recuperare da qualche altra parte. Quindi non sull'intervento, dove si va invece a mitigare, ma facendo azione da un'altra parte. La compensazione però ha anche un ruolo di poi limitare il consumo di suolo, perché laddove viene imposta, questo di fatto orienta il mercato immobiliare a recuperare, rende più conveniente spesso recuperare l'esistente piuttosto che invece andare a costruire sul nuovo. Per stringere un po' sulla tua area, da quando tu girasti quel documentario che poi ti ha portato a Bruxelles, come ricordavi prima, che cosa è cambiato nell'area di Parma? C'è più attenzione da parte delle persone, ma anche delle amministrazioni? Ma è cambiato molto da un punto di vista della consapevolezza del problema, sicuramente da parte dell'opinione pubblica, della cittadinanza. Se ne parla anche molto a livello di amministratori o nei programmi politici che ci sono, nei programmi elettorali. C'è anche una maggiore sensibilità da parte di alcune settori del mondo imprenditoriale legato alle costruzioni e allo sviluppo immobiliare. È cambiato però poco da un punto di vista degli strumenti, ecco, questo per ora c'è un ritardo rispetto a quello che è questa sensibilizzazione che si è avuta rispetto all'applicazione poi di regole e strumenti davvero efficaci, anche se si iniziano a vedere piani territoriali provinciali che impongono dei limiti di consumo di suolo, come quello per esempio di Torino. Si introducono, è stata introdotta in Emilia Romagna, comunque degli obiettivi per limitare il consumo di suolo. Chiaro che poi vederli applicati, insomma, bisognerà vederlo nel tempo. L'altro dato molto evidente è che comunque il mercato si è fermato. Insomma, ma si è fermato per altri motivi, però non si è fermato. Per altri motivi, no, si è fermato proprio perché si è espanso troppo, si è allargato troppo, in più tempo c'è stata la crisi finanziaria, anche di credito, ma di fatto poi si è anche messo sul mercato troppi volumi. Io abito a Parma, nel comune di Parma ci sono già autorizzati 15.000 praticamente alloggi, che è una cosa che può coprire la domanda per i prossimi 20 anni, insomma si è veramente dato fondo a tutto. Come diceva un assessore all'urbanistica di Parma, che per fortuna poi non c'è più, essendo dimesso insieme a tutta la giunta con i trascorsi che ci sono stati, avevano aperto il rubinetto e se ne vantavano anche, insomma questo liberismo spinto per quanto riguarda le le concessioni per trasformare il suolo e costruire del nuovo. Il risultato è che noi ci troviamo tanti capannoni vuoti o sfitti, cantieri non finiti e molto invenduto. Quindi se c'è sensibilità e diciamo una limitazione dovuta a questa situazione, però sugli altri due pilastri, mitigazione e compensazione, per ora non si è mosso granché o quasi nulla. Si muove poco e in maniera diciamo non sistematica e strutturata. Per esempio sulla mitigazione in molte zone viene applicato il principio dell'invarianza idraulica, che è un principio fondamentale per le nostre aree della pianura padana, che sono soggette, ma non solo della pianura padana, delle coste, della Liguria, ovunque in Italia, insomma sono soggette a fenomeni di alluvione e fenomeni che poi sono sempre più frequenti, da una parte perché cementifichiamo troppo e dall'altra perché ci sono anche dei cambiamenti nell'intensità e nella frequenza degli eventi meteorici legati al cambiamento climatico. Quindi applicare per esempio l'invarianza idraulica è già un mitigare, cioè cercare di preservare alcune appunto funzioni che sono svolte dal suolo, che immagazzina l'acqua, che la fa infiltrare in falde invece che convogliarla immediatamente nel reticolo superficiale. Questo viene fatto magari creando delle piccole casse di laminazione dove ci sono nuovi quartieri e appunto utilizzando materiali che consentano la permeabilità delle superfici a parcheggio, insomma, che vengono usate per ricortire insomma le pertinenze esterne, il recupero delle acque di prima pioggia, insomma tutti questi interventi che vengono fatti. Però manca ancora diciamo uno incardinata dentro un ordinamento normativo che poi diventa pratica nel sviluppare gli strumenti urbanistici, gli strumenti appunto queste mitigazioni o compensazioni fatte in maniera sistematica. Tra gli esempi che ci sono in queste linee guida, ad esempio, che potrebbero essere assolutamente prese in considerazione, c'è la città di Dresda che appunto ha imposto di fatto il consumo netto di suolo zero, il che vuol dire che non vuol dire che non ci si può espandere, ma se uno si espande deve recuperare ad usi naturali o agricoli aree che precedentemente erano occupate, creando così una sorta di riciclo, no, delle aree. Bisogna pensare anche a un riciclo anche nel settore dell'edilizia e nel tessuto urbano. Magari ci sono zone che possono ancora espandersi, ma altre allora si contraggono e vengono restituite. Quindi questo può anche generare meccanismi virtuosi. Bisogna studiare, sviluppare poi gli strumenti urbanistici adeguati di perequazione, di crediti edilizi che portano poi a questi risultati. Le linee guida in questo sono linee guida, quindi non c'è niente di impositivo da parte dell'Unione Europea? No, non c'è niente di impositivo proprio perché mancando diciamo la direttiva quadro non ci sono norme poi cogenti per gli Stati membri, sono proprio delle linee guida che sono messe a disposizione dei governi locali, dalle regioni ai comuni, agli stessi stati membri, che possono utilizzarle per poi sviluppare nei loro ordinamenti normativi, all'interno delle norme sull'uso del territorio, delle norme urbanistiche, possono prendere spunto da questi esempi, da queste buone pratiche e applicarle in una maniera più sistematica. Certo, prendere magari contatti anche con le amministrazioni che le hanno già sperimentate. Esatto, cioè creare anche una sorta di rete, di networking tra chi ha esperienze più avanzate e chi invece vuole iniziare a intraprendere delle azioni e quindi non deve partire da zero, perché esempi di successo ce ne sono. E bisogna anche dire che questo viene fatto anche non contro l'economia, contro lo sviluppo, contro l'edilizia, ma viene fatto invece ripensando e riorientando il mercato in modo tale che comunque si preservi un bene comune come il suolo e venga fatto l'interesse generale di lungo periodo e vengano ridotti anche i costi che poi si devono sobbarcare le amministrazioni, no? Perché comunque questa grande espansione adesso è diventato poi un grande costo in termini di manutenzione, di poi fenomeni avversi sul territorio, Questo ormai è chiarissimo, perché certi interventi sconsiderati poi hanno avuto conseguenze gravissime, questo c'è chiaro ogni anno. E questo poi lo paghiamo noi come esternalità che vengono pagate sia direttamente come costi pubblici dall'amministrazione statale, comunale o regionale, e sia noi come cittadini, perché per esempio poi abbiamo anche un disagio sociale in queste periferie molto così ormai disarticolate, sconnesse, ma soprattutto questa grande conurbazione dispersa che abbiamo creato in un momento in cui si riducono le risorse per i servizi pubblici locali, significa che noi dobbiamo fare affidamento sempre di più sulla macchina, e questo, oltre a creare traffico, congestione, inquinamento, grava anche sui bilanci familiari. Insomma, si è creata una struttura anche più energivora, in più non si è dato impulso concreto e forte alla riqualificazione urbana, cosa di cui noi abbiamo bisogno sia in termini abitativi e sia per migliorare le prestazioni energetiche delle nostre città. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Prosegue dopo la viabilità la nostra conversazione con Nicola Dall'Olio, regista de Il suolo minacciato, un documentario sul consumo di suolo in provincia di Parma. Attualmente Nicola Dall'Olio è anche consigliere comunale a Parma, prosegue il suo lavoro nella provincia di Parma, anche se dice con una certa difficoltà dovuta a tutti gli impegni di cui si è caricato negli ultimi anni. Non ultimo quello che l'ha portato qui con noi ospite oggi, perché ha fatto parte del gruppo di esperti esterni che la Commissione europea ha voluto consultare nella stesura di linee guida contro il consumo di suolo nella Unione europea. C'è un passaggio del video che avete realizzato, Nicola, durante il periodo di lavoro alla stesura delle linee guida della Commissione sulle, e questo è il nome preciso, sulle migliori pratiche per ridurre, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo. Dicevo, c'è un video che avete realizzato in quel periodo che mi ha molto colpito, almeno in alcuni passaggi che voglio far ascoltare agli ascoltatori. Parla, in quello che sentiremo adesso di passaggio, Ciro Gardi, che è un docente di geopedologia alla Università di Parma. Sentiamolo insieme. Da un punto di vista economico, l'uso agricolo è sempre perdente, perché il valore che si realizza costruendo case o capannoni è di gran lunga maggiore di quello che si può ricavare dall'attività agricola. Ogni anno in questa regione vengono persi all'incirca 3.000 ettari di terreno agricolo che sono persi per sempre. I proprietari di alcuni di questi capannoni possiedono a 2 chilometri di distanza altri capannoni che sono vuoti. La questione è da porre anche in termini politici e da porre in termini di pianificazione corretta del territorio. Quindi Nicola, un terreno agricolo non sarà mai tanto redditizio quanto lo è un fabbricato. Come possiamo commentare queste affermazioni di Ciro Gardi? Innanzitutto non lo è stato fino adesso stanno un po' cambiando anche i termini. Qua più che altro quello che si confronta sono, diciamo, una redditività di brevissimo periodo con margini di guadagno molto alti, ma che sono consentiti questi margini di guadagno da una certa regolamentazione, da una certa normativa, per cui il prelievo fiscale comunque è ridotto, perlomeno in Italia è molto più basso di quanto accada in altri paesi. Bisogna considerare però che invece l'agricoltura, un terreno agricolo, garantisce reddito nel lungo periodo, cioè ogni anno ci sarà una produzione, e questa produzione è destinata ad avere un valore sempre più importante proprio per le scarsità che si dicevano prima, legate all'approvvigionamento alimentare o anche di produzione primaria per altri usi, alla chimica verde, all'energia alternativa, e quindi più che guardare sulla competizione agricoltura e diciamo settore immobiliare, che poi il vero guadagno si ha quando c'è il cambio di destinazione d'uso più ancora che la costruzione dell'immobile, bisogna invece immaginare un sistema fiscale che disincentivi la costruzione sul nuovo e favorisca il recupero dell'esistente. Ecco, questo è quello che ci si deve dare come obiettivo. È chiaro che finché la fiscalità dei comuni o le entrate dei comuni dipendono in gran parte da introiti che derivano dal consumo di suolo, sarà sempre difficile invertire questa tendenza. Si possono fare tanti bei discorsi contro il consumo di suolo, ma se non si va poi a rivedere il sistema fiscale, il sistema delle regole, beh, difficilmente poi si riuscirà ad avere delle politiche efficaci. E qui si torna a quel discorso che facevi prima del fatto che a livello proprio di governo centrale questo discorso viene affrontato in maniera disorganica, un po' dispersiva, e un po' qua un po' là. Ma sì, adesso nel decreto così sviluppo, crescita, anche questa, su questa parola ci sarebbe un po' da discutere, ma comunque si parla molto degli interventi di riqualificazione urbana, però insomma non è incardinato, diciamo, in un disegno molto chiaro del tipo: il territorio in Italia è un patrimonio che non ci possiamo più permettere di sperperare, la sua valorizzazione non passa dalla sua cementificazione, ma invece da un uso per legarlo alle filiere agroalimentari nostre, che portano non è solamente la produzione primaria, ma tutto quello che ci sta dietro, no? Quindi prodotti di qualità, nella nostra pianura padana, immaginiamo il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, vengo da questa zona, quindi filiere che hanno anche un peso economico rilevante, il turismo che ci può stare dietro, anche il benessere sociale legato ad avere un territorio in salute. Questo è l'investimento che si deve fare sul territorio. Dall'altro lato, una volta riconosciuto questo, è chiaro che c'è un altro investimento da fare, che è su tutto il patrimonio invece edilizio esistente, che in gran parte è stato costruito nel secondo dopoguerra con criteri, per esempio, sismici assolutamente inadeguati, criteri energetici assolutamente inadeguati. Le case costruite negli anni 70, ancora anni 80, consumano 10-12 volte più delle case che si possono costruire adesso, magari in classe A o in classe B, che hanno anche qualità abitative molto, molto basse. Quindi è una questione proprio di volontà politica per creare opportunità di lavoro e di reddito nel recupero piuttosto che nella costruzione del nuovo, e soprattutto per innescare anche una filiera del riciclo, che ci vuole anche questo, del riciclo e del recupero anche nel settore edile, recuperando per esempio i materiali di costruzione invece che continuando a fare escavazione di inerti, che anche questo ha poi delle ricadute sul territorio. E allora, prima di cambiare argomento e avviarci verso la conclusione, Ciro Gardi, ancora nel video che dicevamo essere stato realizzato nel corso della stesura delle linee guida contro il consumo di suolo in Europa, altri due passaggi assai significativi. In realtà il suolo può assolvere a diverse altre funzioni, come abbiamo detto in precedenza, non solo produzione agricola, ma anche regola il ciclo delle acque, quindi aiuta a prevenire le inondazioni, aiuta a combattere il cambiamento climatico, perché nel suolo può essere immagazzinata una grande quantità di carbonio. Il suolo è una riserva di biodiversità. Edifici abbandonati, costruiti e mai utilizzati. E questi non sono solo degli esempi teorici, ma sono degli esempi concreti di cosa il consumo di suolo, l'urbanizzazione, inutile in molti casi, possa comportare dal punto di vista della sicurezza alimentare. Ad esempio qui puoi vedere come quest'area non costruita, ma non coltivata, e la situazione si replica naturalmente per gli altri paesi d'Europa. Siamo abbastanza tranquilli perché riusciamo a comprare sul mercato globale, sul mercato mondiale, tutto ciò che ci serve. Riusciamo a comprare la soia dal Brasile, il grano dal Canada, dall'Argentina. Ma fino a quando sarà possibile tutto questo? Per chiudere, visto che a Bruxelles hai fatto un ripasso delle buone pratiche europee, chi ti è sembrato aver avuto su questi aspetti che nominavi adesso delle iniziative convincenti che potremmo riprendere? Ma, quindi non solo di singole città, ma anche di governi proprio. È chiaro che chi è più avanti in questo momento, non è un caso, è la Germania, ancora una volta. Quindi se la Germania è lì a fare la locomotiva d'Europa, è vero che è per il suo settore industriale, ma anche per una capacità anche di fare politiche industriali, politiche territoriali, e buon governo e difesa dei beni comuni, che poi alla fine pagano, perché investire per esempio su una città comunque compatte, che pensano di più alla riqualificazione, poi danno anche dei vantaggi competitivi, oltre a far vivere meglio chi ci abita, ma danno dei vantaggi competitivi perché sono sistemi territoriali che funzionano meglio, che sono meglio serviti dai sistemi di trasporto pubblico, che hanno meno problemi di congestione, che consumano meno energia. Quindi questa Germania in Germania c'è un chiaro disegno, la compensazione, tutte le migliori pratiche sulla compensazione vengono prese da lì, poi ci sono anche altri paesi, magari anche in Olanda, così, ma insomma in Germania lo si sta applicando in maniera sistematica e in più ci sono magari amministrazioni comunali che vanno anche oltre, no? Il primo governo che ha iniziato a porsi il limite sul consumo di suolo è stato il governo ancora Kohl nel 98 e il ministro dell'ambiente era Angela Merkel, che aveva dato come obiettivo proprio di ridurre di tre quarti il consumo di suolo giornaliero che si... Quindi una politica partita da lontano, insomma, non è stata improvvisata, ecco. Partita da lontano in maniera assolutamente trasversale e bipartisan, così come da noi trasversale e bipartisan è stato il saccheggio del territorio, ecco, quindi qua si vedono proprio le differenze tra un paese che guarda al futuro e all'interesse della comunità e un paese che invece privilegia degli interessi circoscritti e di brevissimo periodo e che praticamente mette a rischio il proprio futuro. Per quello che ho visto, forse anche per quanto riguarda la Germania, è un paese in cui i cittadini sono più partecipi di questi temi, un po' meno sicuramente lontani. Hanno maggiore consapevolezza della loro Heimat, della loro patria, del loro suolo e hanno una consapevolezza di quanto i beni comuni appartengano ai cittadini, quindi li difendono e li tutelano più di quanto facciamo noi, anche se devo dire che negli ultimi anni c'è stato un forte risveglio proprio sul tema dei beni comuni, magari c'è stata poca sensibilità sul discorso suolo, è arrivato tardi, c'era più su altri beni comuni sia fisici che immateriali, adesso sul suolo lo si è anche insomma capito grazie al concorso poi di tante persone che hanno iniziato a scrivere, penso a Salvatore Settis, a Petrini, insomma, che hanno dato anche su un risalto sui media nazionali a questo tema e quindi se ne è avuta consapevolezza. Poi è stata talmente esagerata la speculazione che c'è stata negli ultimi anni, quando insomma al culmine della bolla immobiliare, che era evidente che insomma solo chi aveva gli occhi chiusi non poteva accorgersi che si stava veramente ferendo a morte il nostro territorio, si stava esagerando e preparando il terreno per una crisi che di fatto stiamo vivendo. Grazie Nicola Dall'Oglio per essere stato ancora una volta con noi. Grazie a voi. E siamo quindi giunti al termine di questa puntata dell'Altro Pianeta. Grazie a tutti voi per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che per scriverci c'è l'indirizzo internet l'altropianeta@radio24.it. Tutte le puntate le potrete trovare sul nostro sito internet. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto con Radio 24. We'll be right back.